Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, a tutti buona giornata. È davvero superfluo ricordare, rammentare quanto il maltempo abbia messo in ginocchio il nostro paese negli ultimi giorni, e sta accadendo sempre più spesso, per la verità, negli ultimi anni, e tutto questo riporta in primo piano l'attenzione alla sicurezza da garantire nelle città e nelle strade. Proprio sulla sicurezza stradale ci concentriamo oggi, con l'inverno che si avvicina, anche se per la verità ancora c'è un clima molto mite ovunque. Oggi scatta in molte zone d'Italia l'obbligo di montare pneumatici invernali o l'obbligo di avere le catene a bordo. Singoli provvedimenti che regolano i tratti di viabilità autostradale ed extraurbane, le scadenze temporali in ciascuna regione e provincia. È quindi importante già da oggi informarsi attentamente sulle norme vigenti nei territori che ci si appresta a percorrere, per evitare le multe che possono arrivare a superare anche i 300 euro, ma soprattutto per evitare incidenti e disagi. Salva Danaio fa il punto della situazione, risponde alle vostre domande, raccoglie anche i consigli utili per effettuare una scelta giusta ed individuare il prodotto migliore per la propria auto e la sicurezza della propria famiglia. Capire quando conviene montarlo, ma anche quando è giunto il momento di sostituirlo a causa dell'usura. Con noi stamattina una accoppiata vincente ormai su questo argomento, squadra che vince non si cambia, Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Lei ha fatto il cambio? Sì, lo sa che ormai la interrogo sempre, no? È vero che i calzolai molto spesso va sempre in giro con le scarpe rotte, come era successo a me, per la verità, in giugno, quando, facendo la puntata sull'argomento al contrario, quando era ora di sostituire, appunto, e mettere il pneumatico versione estiva, io in realtà ancora praticamente a metà giugno non l'avevo fatto, però le condizioni meteorologiche mi avevano supportato in questa decisione. Buongiorno e grazie anche per il suo ritorno ad Antonio Miele, presidente Confartigianato Autoriparazione. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, radioascoltatore. Lei il cambio l'ha fatto? Beh, non ancora, pure io sono ancora in ritardo. Lei però abita in una zona ancora molto calda e quindi anche lì ha la giustificazione? No, abbiamo avuto temperature bellissime fino a ieri, da oggi invece il tempo è cambiato pure dalle nostre parti, quindi è importante che pure io mi attrezzi per quanto riguarda il discorso della sicurezza dei pneumatici. Benissimo, allora, per tutti gli ascoltatori che vogliono naturalmente interagire con noi sull'argomento di questa mattina, possono farlo come sempre chiamandoci ed intervenendo in diretta all'800240024, scrivendoci degli sms al 349-238-6666. Siamo anche su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24, potete scriverci anche delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, la borsa, come vi dicevo stamattina, tentenn, era negativa sin dall'inizio, continua ad essere tale, appesantita dalla performance di Wall Street di ieri sera, dai dati sul prodotto interno lordo dell'Eurozona, dove ormai la strada della recessione è spianata, -0,3% sulle FTSE MIB, -0,2% a Parigi, -0,5% a Francoforte, Londra -0,32%, l'euro sul dollaro a 1,2762, quindi curiosamente, nonostante i dati di cui vi abbiamo raccontato nel giornale radio, l'euro sta rafforzandosi, forse perché probabilmente il dollaro è un po' più in difficoltà nelle ultime ore. C'è qua lo spettro americano del fiscal cliff, il baratro fiscale del quale ormai il congresso americano deve decidersi a parlare per trovare una soluzione. I migliori titoli di Piazza Affari: Diasorin +1,75%, Impregilo +1,71%, Fiat +1,44%, Unicredit +1,22%. In discesa di quasi 3 punti, Autogrill e Saip -2,36%. Campari. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, è tempo di pneumatici invernali. Fiocca, fiocca la neve, fiocca, fiocca stasera, e si posa leggera sul tuo naso all'insù. L'inverno si avvicina e con l'arrivo di pioggia, neve e ghiaccio, chi viaggia in auto non può sottovalutare il tema della sicurezza stradale. Nel controllare la propria vettura, molti avranno già pensato alla sostituzione delle gomme estive con pneumatici termici adatti alle intemperie della brutta stagione, obbligatori in caso di neve, in alternativa al montaggio delle catene. In molte province, e non solo al nord, apposite ordinanze rendono questo equipaggiamento necessario sempre, per i mesi invernali, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, e nella maggior parte dei tratti extraurbani e autostradali, l'obbligo per il 2012 scatta proprio nella giornata di oggi. Mai come in questi casi è importante fare per tempo i controlli necessari e le scelte più attente, per garantire la massima sicurezza, ma anche per evitare le sanzioni, che per chi viene trovato sprovvisto di pneumatici invernali o di catene, possono superare i 300 euro. Le gomme invernali, nella maggior parte dei casi, permettono di spostarsi in caso di neve, senza dover ricorrere alle catene, e grazie ai più recenti progressi tecnologici, garantiscono un'efficacia sempre maggiore, riducendo gli spazi di frenata. Per fare l'acquisto giusto, garantendo anche la sicurezza del nostro portafoglio, sarà importante informarsi con cura sui prezzi, imparando a paragonarli per evitare spese poco convenienti, ma anche sui requisiti che, per legge, questo prodotto deve rispettare. Un'altra attenzione da non sottovalutare per chi già da anni ha provveduto all'acquisto delle gomme invernali e le cambia periodicamente è quella di verificarne lo stato di usura e provvedere a un'eventuale sostituzione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Fiocca fiocca la neve, stanno fioccando anche tante telefonate. Adesso vorrei subito chiedere a Marco Lombardo di mettere in linea immediatamente gli ascoltatori, perché stamattina ci vogliamo davvero sbizzarrire con i casi pratici, che sono sicuramente i più utili per capire come ci dobbiamo comportare in questo frangente. Prima di tutto però, Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, voglio capire come si stanno comportando le amministrazioni comunali. Stanno ottemperando la normativa che impone di emanare queste ordinanze per garantire la sicurezza, appunto, stradale? Abbattere tutti sul tempo, leggevo sul Sole 24 Ore di ieri, è stato nel mese di settembre il comune di Modena che ha emesso la prima ordinanza stagionale, quella che impone, appunto, dal 15 novembre al 15 aprile l'uso di pneumatici invernali. L'ha emanata il 5 settembre addirittura. Sì, vero, è stata la prima, l'abbiamo accolta con favore. Noi avevamo chiesto all'amministrazione di anticipare l'entrata in vigore di queste ordinanze in termini di comunicazione, non di vigenza, proprio per consentire agli automobilisti di potersi recare dal rivenditore a farsi sostituire le gomme, piuttosto che fare altre operazioni tipo l'acquisto di dispositivi di aderenza, cioè le famose catene. Il dispositivo di aderenza, così lo chiama il codice della strada. Ottimo. E quindi questo, un sacco di cose. Quindi un qualcosa di tecnico. Comunque, allo stato attuale noi abbiamo evidenza di qualcosa come 100 ordinanze tra ordinanze comunali e provinciali. Circa il 30% delle province d'Italia è già soggetto a ordinanza, e proprio ieri sera è stato emanato il piano neve da parte di Viabilità Italia, quindi autostrade e ANAS, con mi pare un'altra cinquantina di tratti che praticamente rendono il nostro paese coperto da questi provvedimenti, che quasi tutti entrano in vigore il 15 di novembre, altri il 1 di dicembre. Quindi è una situazione a macchia di leopardo che comunque interessa tutto il paese. Lei auspica che ci sia maggiore coerenza nelle disposizioni locali. È chiaro che quello che fa Milano non ne dovrebbe interessare quello che succede a Napoli piuttosto che in altre città del sud, quindi quale maggior razionalizzazione sarebbe necessaria secondo lei? Al nostro giudizio la cosa fondamentale è quella che le ordinanze siano innanzitutto conformi al codice della strada. Alcuni hanno emanato l'ordinanza anteponendo in caso di neve, questo non è conforme al codice della strada. Il codice della strada dice che qualcuno, cioè chi è titolare, quindi è il proprietario, il gestore della strada, può emanare queste ordinanze. Quando le emana, però, le emana definendo uno specifico arco temporale, quindi da un certo giorno, di un certo mese al termine, e in quel periodo vige un obbligo a prescindere che ci sia neve, ghiaccio o quant'altro, quindi altrimenti non avrebbe senso la catena a bordo. È come dire a un cittadino: sei obbligato da oggi che ha nevicato a mettere il pneumatico invernale. Questo è un non senso che noi abbiamo molte volte stigmatizzato, perché questo non rende possibile poi per l'automobilista adempiere al provvedimento, e nemmeno al gommista a poter offrire un servizio adeguato. Poi si creano fenomeni speculativi, si crea tutta una serie di effetti negativi che non vanno a favore del consumatore. Se un comune non ottempera a questo obbligo, che cosa succede? Diciamo che rischia solamente il conducente trovato stato senza... Beh, il comune dovrebbe applicare la legge per com'è. Non v'è dubbio che esiste un articolo del codice, che è l'articolo 5, che consente al Ministero dei Trasporti di intervenire intimando al comune di adeguare la propria ordinanza in relazione a quelle che sono le regole del codice. Qui stiamo parlando dell'articolo 6 del codice, che prevede questo. Presidente Miele, Antonio Miele, presidente di Confartigianato Autoriparazione, lei come vede questo problema, appunto, di organizzazioni locali che si attrezzano diversamente su questo problema? Lei vive in una città del sud, appunto, quindi non perché ci sia naturalmente meno sensibilità, è logico che date le condizioni meteo forse questo è un problema meno stringente per quello che riguarda il meteo, però per quello che riguarda la sicurezza direi di no. Anche secondo lei sarebbe necessaria una maggiore razionalizzazione sul territorio? Ma penso proprio di sì, anche se è vero che vivo una parte diversa dall'Italia, quella del sud, ma già ho visto ieri, ma proprio sulle strade principali della mia regione, che le ordinanze già sono scattate, quindi diciamo pure qui da noi ci sono stati messi i cartelli in Bella Vista per dire agli automobilisti di attrezzarsi rispetto a questo problema, anche perché non può essere una cosa a macchia di leopardo. Capisco che ci sono delle realtà dove a livello del mare dove forse questa ordinanza non serve o non servirebbe, però se è una norma che di legge qua va rispettata, e quindi le amministrazioni comunali, provinciali e regionali devono adeguarsi, quindi non è che possono lasciare al caso, anche perché in caso di incidenti poi sono le amministrazioni locali a pagarne le conseguenze. Tra l'altro sgombrare il campo anche da un equivoco. Bertolotti mi ha detto non li chiamare più pneumatici da neve, perché in realtà sono appunto i termici, gli invernali. Il tema è che non è che queste servono, queste gomme, se nevica, è che se anche se si abbassano le temperature in maniera molto forte già proteggono appunto da condizioni appunto di insicurezza piuttosto problematiche, Bertolotti, per cui il tema è questo, non è la neve il problema. Sono utili quando fa freddo, ecco. Non quando c'è la neve al suolo, quando la temperatura scende mediamente sotto i 7 gradi. Abbiamo effettuato prove con la presenza di istituzioni, media e quant'altro, in assenza di neve un pneumatico invernale rispetto a un estivo riduce lo spazio di frenata fino al 15%, che non è poca cosa, soprattutto se uno pensa alla circolazione cittadina. Quando poi nevica non necessitano il montaggio di catene e lo spazio di frenata si riduce di oltre il 50%. Certo, allora io direi che anche tutti quelli che ci ascoltano sulle questioni legate alla sicurezza sono tutti d'accordo. La questione qua oggi più che mai è quella economica, quindi dobbiamo cercare di capire quanto costa questo ricambio, ogni quanto dobbiamo farlo, se possiamo anche fare una volta l'acquisto e magari trovare il modo di conservare le gomme in garage piuttosto che da un gommista appunto di fiducia, e sentiamo anche chi ha trovato poi altre alternative per risparmiare. Cominceremo a sentire tra poco i nostri ascoltatori, Franco da Pavia, Giancarlo da Treviso e Rosario da Milano, che sono già pronti ad intervenire. C'era però Alessandro Marco Tulli, che è uno dei nostri assistenti ai nostri programmi, che ci ha scritto che ha comprato gomme invernali di spessore inferiore a quelle tipicamente in uso d'inverno, perché gli ha detto il gommista a cui si è rivolto vanno bene tutto l'anno. Presidente Miele, Alessandro ci chiede: mi posso fidare? Beh sì, questo è un pneumatico, noi lo chiamiamo il quattro stagioni sostanzialmente, che va bene tutto l'anno, quindi ha una caratteristica tutta particolare rispetto al pneumatico normale, però si presta pure a quelle che sono le esigenze del periodo invernale, quindi non è, a parte il discorso in caso di neve e quant'altro, ma io penso che per un fatto di sicurezza, già visto che inizia il periodo delle piogge, quindi del cattivo tempo, già pure con la pioggia questo pneumatico ci dà una sicurezza in più, quindi una garanzia in più all'automobilista, fermo restando che va trattato in un certo modo, a partire dalla guida. Ma questi vanno bene per tutto l'anno? È un investimento maggiore iniziale, o perché si chiamano quattro stagioni, Miele? Quattro stagioni perché vanno bene tutti i periodi dell'anno, non è un investimento particolare, diciamo, più o meno costa quanto un pneumatico normale, diciamo, quello da neve, però chiaramente ha questa caratteristica che può essere utilizzato durante tutto l'arco dell'anno, non è in modo specifico per il periodo invernale, non c'è la necessità di doversi approvvigionare di pneumatici estivi o viceversa, bensì è un pneumatico che va bene per tutte le stagioni. Allora, Benissimo, allora dunque per il presidente di Confartigianato Autoriparazione questa è una scelta che va bene. Bertolotti freme perché non è d'accordo, però le devo chiedere di avere un attimo di pazienza perché devo andare in pubblicità. C'era anche un ascoltatore che voleva chiedere dei suggerimenti sull'utilizzo dei pneumatici validi per tutte le stagioni. Adesso l'ascoltatore, evidentemente avendo sentito la risposta, ci ha salutato, ma su questi concetti ci ritorniamo tra pochissimo. Speriamo di no, bisognerebbe andare in giro con delle gomme naturalmente a posto, senza rischio foratura. Fabio Bertolotti che ancora ride quando mettiamo questa canzone, ormai la vogliamo accogliere sempre con questa colonna sonora. Lei è Antonio Miele, presidente di Confartigianato Autoriparazione. Si era scatenato prima della nostra pausa il dibattito sull'utilizzo delle gomme valide, perché sono in vendita, comunque noi speriamo che siano tali, per le quattro stagioni. Però insomma Bertolotti non è proprio convinto del fatto che vadano bene esattamente sempre. Ma innanzitutto una precisazione: non esiste dal punto di vista di categoria merceologica le gomme quattro stagioni. Esistono le gomme estive e le gomme invernali, e le gomme invernali hanno la marcatura M+S sul fianco, che poi può essere seguita da un simbolo che sono tre montagnette con un fiocco di neve. M+S significa Madden Snow, quindi fango e neve. Perfetto. Poi, per quanto riguarda l'impiego di queste gomme, che siano estive, che siano invernali, che siano le cosiddette quattro stagioni, non hanno un limite temporale, quindi uno le può mettere il primo di gennaio e togliere il 31 di dicembre. La questione è la consapevolezza della tenuta su strada a seconda della stagione. Quattro stagioni è una buona pizza, però i pneumatici sono le scarpe della nostra vettura. Nessuno pensa di mettersi ai piedi dei sandali in inverno e delle scarpe di para. Ci sono però delle scarpe da tennis che vanno bene per tutto l'inverno, per tutte le quattro stagioni. Ma non sono mai il meglio. Certo. Allora, se uno vuole una ottimizzazione delle prestazioni, pneumatici estivi d'estate, pneumatici invernali d'inverno. Questa situazione di compromesso è una situazione che evidentemente non ha mai un'eccellenza di prestazione né in estate né in inverno. Però senta, Comunque rispondono anche alle ordinanze, quindi un pneumatico che è definito quattro stagioni, ma questo commercialmente, non tecnicamente, quello che l'automobilista deve controllare è che abbia la scritta M+S. Se ha la scritta M+S certamente risponde alle ordinanze, altrimenti no. Quindi per ritornare al caso del mio collaboratore Alessandro, che ha tre figli, per cui sono molto preoccupata che vada in giro in macchina nelle condizioni di massima sicurezza, perché sono anche tutti piccoli. Alessandro lo salutiamo perché ci sta ascoltando. Se circola per Milano con questo tipo di gomma e viene fermato dai vigili urbani che gli controllano appunto lo pneumatico, lui gli dice: questa è un quattro stagioni, l'importante è che abbia l'M+S. L'importante è che sul fianco ci sia la scritta M+S. A questo punto il pneumatico è assimilato al pneumatico invernale per la marcia su neve e di conseguenza soddisfa, se c'è, se vige un'ordinanza, soddisfa il provvedimento. Benissimo, quindi Alessandro vai a controllare che il gommista ti abbia reso questo servizio. Noi andiamo a sentire gli altri ascoltatori. Allora, mi interessava Domenico da Taranto, perché anche questo è un altro bel tema. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. A tutti quanti. Volevo sottoporre questo quesito. Io ovviamente, essendo residente a Taranto, non ho l'obbligo di montare gomme da neve nel corso dell'inverno, però il mio caso concreto è questo. Io ho dei parenti in Abruzzo, laddove vige questa ordinanza. Direi anche perché là, insomma, invece è un po' più freddino in certi momenti dell'anno, ecco. Certo. Nel momento in cui dovessi recarmi per pochi giorni, da 2, 3, 5 giorni, una settimana in Abruzzo, come devo comportarmi? Ho l'obbligo comunque in autostrada di portare con me le catene a bordo, ma nel momento in cui sono in una cittadina dove appunto vige questa ordinanza, come devo fare? Cioè, devo sobbarcarmi la spesa del, certo, per pochi giorni? Perché lei magari Domenico ci può andare quest'anno, dai suoi parenti può decidere per 2 anni di non andare, adesso un conto che magari la sua visita sia frequente o meno, però insomma vedo già Bertolotti che è pronto a dare un'indicazione di andare a cambiare queste no, gomme. No, ma molto semplicemente i provvedimenti non sono legati alla residenza dell'individuo che guida o che è il titolare di quella vettura, ma sono legati all'ambito di circolazione. Quindi l'ordinanza vige per chi circola in una determinata zona per un periodo stagionale, e quindi ahimè l'automobilista deve per forza di cosa, per passare, per avere, diciamo, anche perché questo potrebbe essere per lui stesso un problema, perché attenzione, non dobbiamo guardarlo solo sotto il profilo del costo della catena piuttosto che del pneumatico invernale, qui c'è un problema proprio di sicurezza, cioè andare in Abruzzo è cosa dove è certo di trovarsi in condizioni invernali, di freddo molto, quindi intenso. Il problema della sicurezza stradale non è una possibilità, è una certezza. Quindi piuttosto vada in treno, onestamente, vada in treno. Allora, Presidente Miele, quanto ci costa questo cambio di stagione che non è quello del nostro armadio ma è quello delle gomme della nostra auto? Ammettendo di aver acquistato l'auto quest'anno, l'ho acquistata in luglio, quindi monto ancora pneumatici estivi, ma adesso voglio fare il ricambio perché a breve entrerà in vigore l'ordinanza del mio comune che mi impone appunto di effettuare questo cambiamento. Allora, mediamente i costi che un gommista fa sostenere quali sono? Beh, intanto bisogna vedere, il prezzo cambia da marca a marca, da sezione a sezione, perché ogni autovettura ha una sua sezione di gomma, quindi non possiamo stabilire il prezzo rispetto. Chiaramente ci sono, il numero piccolo ha un costo, quello più grande ne ha sicuramente, però ti ripeto, è molto incido quello che è la marca del pneumatico, perché oggi, come lei può ben sapere, ci sono tantissime marche, però chiaramente la sicurezza è data da un pneumatico certificato, da un pneumatico di una marca conosciuta, perché andare su marchi non conosciuti secondo me non è che ci dà quella garanzia che tutti quanti poi si aspettano. Se qualcuno si volesse avventurare, Presidente, in un acquisto, perché sappiamo bene che grandi centri commerciali danno anche l'opportunità appunto di fare questi acquisti, ma chiaramente se ci vado io a comprarlo, figuriamoci se posso orientarmi nella qualità dello pneumatico da acquistare, dove posso trovare le informazioni? C'è il libretto dell'auto appunto sul quale non lo so, posso reperire le informazioni che mi servono? Sul libretto dell'auto si può reperire quella che è la sezione delle gomme, quindi per il tipo invernale e quello estivo. Ci sono poi, diciamo, i famosi listini che le case costruttrici di pneumatici mettono a disposizione, dove ci sono tante norme che possono essere spiegate e quindi date consigliate agli utenti, quindi diciamo da questo punto di vista ci sono le informazioni necessarie per far sì. Però secondo me poi subentra molto il rapporto di fiducia con il gommista, con, certo, l'autoriparatore, che è quello che deve saper consigliare al meglio il proprio cliente. Ma chiaro, ovvio che io noi essendo... abbiamo fatto come rete Confartigianato, abbiamo dato informazione alla nostra rete di informare pure l'utenza di questa norma, di questo decreto che entra in funzione da oggi, certo, e diciamo proprio per dare l'opportunità, l'abbiamo già fatto qualche giorno fa a dirle il vero, in modo tale da non far arrivare gli utenti in modo impreparato all'appuntamento di oggi. Però io non penso che sia solo un problema di costi, intanto vi ripeto, bisogna capire, scegliere la marca più opportuna, la migliore ci dà sicurezza in più. Ma rispetto alla sicurezza non è solo il fatto della marca o quant'altro, bisogna capire pure che molto spesso sulla neve è il modo di guidare che incide tantissimo. Questo noi certo lo diamo per consolidato, questo concetto, Presidente. Molte insomma... volte sono piccoli accorgimenti che danno alla sicurezza alla macchina, a partire molto spesso pure dalla pressione delle gomme, dalla convergenza, dall'equilibrio, cioè sono tante cose che messe insieme danno la possibilità di avere una macchina sicura, e soprattutto il modo di guida che è fondamentale sulla neve. Certo. Francesco da Facebook ci scrive: vedo che in provincia di Bergamo e Brescia non c'è ancora nessun obbligo, è corretto, presidente Bertolotti, che ha tutta la lista della spesa sotto gli occhi? Sì, allora è vero, la provincia di Bergamo e quella di Brescia non hanno un'ordinanza operante, però attenzione a dare una informazione, a valutare la cosa. Anzi, prima che mi dimentichi, do questa indicazione. Sì. Sul nostro sito, da questo pomeriggio, www.pneumaticisottocontrollo.it, sarà possibile ricavare tutte le ordinanze che siamo riusciti a trovare. Dicevo, per il momento un centinaio tra province e comuni, e prossimamente, perché è uscito ieri il provvedimento, anche tutto quello anche che è stato emanato. Perché voi come emanato. Fate a fare questo monitoraggio? Chiedete alle amministrazioni di comunicarvelo? Noi abbiamo un sistema, spie su... No, nessuna spia. Noi allora ufficialmente, formalmente, pubblichiamo solo e se abbiamo delle ordinanze, e quindi tutte le nostre indicazioni, certo, sono accompagnate da copia dell'ordinanza con una chiarezza, in maniera tale che l'automobilista possa ricavare correttamente in che cosa si sostanzia l'ordinanza, perché attenzione, molto spesso le ordinanze vigono solo per determinati tratti autostradali, quindi occorre sapere, certo, quindi fornire le informazioni. Comunque sul nostro sito www.pneumaticisottocontrollo.it ci sarà questa possibilità. E sentivo anche per il discorso dei costi. Sì, aspetti, li affrontiamo dopo i suggerimenti, ovviamente, per chi è in viaggio. Sentiamo un po' cosa succede sulle strade oggi, soprattutto guidate con tranquillità, con calma e sicuri. Fiocca, fiocca la neve, fiocca, fiocca sui tempi. Beh, io ormai ho un assistente che si è sbizzarrito nella ricerca delle colonne sonore, per cui divertiamoci un po' anche ascoltando della musica divertente. L'argomento un po' meno, cioè nel senso che è molto interessante senz'altro, però insomma, quando in questo momento dell'anno, dopo che si sono affrontate magari tante spese, arriva il Natale, ci sarebbero tanti altri impegni finanziari, naturalmente adesso forse per qualche famiglia fare il cambio delle gomme tra l'estivo e l'invernale comincia a diventare qualcosa di ancor più impegnativo. Però Bertolotti, abbiamo sicuramente capito, siamo tutti d'accordo che dobbiamo viaggiare in condizioni di totale sicurezza, però lei qualche cifra concreta su questo ricambio ce la può fornire? Ma allora, innanzitutto il pneumatico estivo ha messo a confronto a parità di marca, a parità di livello di posizionamento di mercato, un estivo e un invernale costano praticamente la stessa cifra, la differenza al massimo può essere tra il 5 e il 10%, non di più. Mm-hmm. Quindi i due prodotti sono assolutamente paragonabili dal punto di vista di costi. È evidente a tutti che se ho ai piedi un estivo, consumo l'estivo, se ho l'invernale non consumo l'estivo e viceversa. Però consumo anche diversamente il carburante. Evidentemente facendo questo cambio vado a gonfiare le gomme. Il 52% degli italiani non gonfia le gomme. Non gonfiare le gomme produce un effetto negativo sul consumo di carburante, ormai testato da N studi anche a livello di Commissione Europea, da un minimo del 3% fino a un massimo del 15%. Se uno si dovesse divertire, tra virgolette, a fare quattro conti in tasca, si renderebbe conto che l'utilizzo del pneumatico invernale è di conseguenza un'anticipazione di spesa, non un costo aggiuntivo, e considerato l'effetto virtuoso sul consumo di carburante rischia di essere o addirittura è un costo inferiore. Lo so, bisogna mettersi lì, fare due conticini come si fa per tante cose in famiglia. Ma gli italiani sono capaci, sì. Perché... Maurizio ci scrive: per quale motivo non vengono mai consigliati i pneumatici quattro stagioni? Maurizio, non vogliamo tornare su questo argomento perché gli abbiamo dedicato già tutta la prima parte della trasmissione. Allora, andiamo a sentire... Ah, un SMS, un ascoltatore scrive: insegnate a riconoscere l'anno di produzione delle gomme, in vendita ci sono anche delle gomme vecchie. Come le riconosciamo, Bertolotti? Allora, sul fianco del pneumatico, dopo una scritta DOT, ci sono dei numeri seriali. Comunque, ancora una volta, tutte queste informazioni possono essere ricavate dal sito di servizio nostro www.pneumaticisottocontrollo.it. Nessuno fa mistero. Attenzione a fare considerazioni non corrette. Cosa significa gomme vecchie? Vecchie rispetto a che cosa? Ecco. Vecchie come, diciamo, stoccaggio, certo, magazzino, esatto. Vecchie come possono avere invecchiate, datate, perché ma utilizzate poco, quindi avere ancora un'ottima qualità. Le gomme non hanno una scadenza, non sono lo yogurt, quindi non scadono. È una questione, diciamo, di, tra virgolette, virgolette buonsenso. Sul punto vendita non credo che ci siano gomme così vecchie come dice avariate, quelle praticamente scadute, non esiste comunque una scadenza, quindi se conservate correttamente possono essere assolutamente paragonabili a quelle fatte il giorno prima per tanto tempo. Allora, chi andiamo adesso? Chi è che aspettava da un po'? Giancarlo da Bergamo, dove ancora appunto le ordinanze non sarebbero state emesse. Bergamo-Brescia, sì. L'ordinanza non ce l'ha, però attenzione, a Bergamo per esempio c'è il comune, c'è il comune di Clusone, per cui il milanese che parte da Milano e vuole andare in Val Seriana, a questo punto poi si trova all'imbocco della valle. Ad attraversare qualche comune dove vige l'ordinanza. Perché comune pure Milano non ha ancora emesso l'ordinanza. Comune, provincia di Milano sono diciamo ancora le poche che in Lombardia non hanno, simpaticamente spero, lunedì in occasione del lancio di un progetto pneumatici ok, che a favore dei cittadini milanesi, del comune di Milano insieme all'assessore Marano e così via, mostravo come il milanese in una sorta di riserva indiana, sì, perché o rimane a circolare nell'ambito della sua provincia, ma appena va a destra, a sinistra, ovviamente geograficamente parlando, ha l'impossibilità, perché è totalmente coperto da ordinanze, come pure quando va a Como, quando va anche dalla parte destra. In buona sostanza il milanese è costretto, se vuole, a operare una scelta, cioè andare verso il pneumatico invernale oppure rischia. Allora, dunque, Mauro da Gorizia. Mauro, sentiamo un po' la sua domanda, perché coinvolge tanti ascoltatori probabilmente. Buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è secca. Il codice della strada dà queste disposizioni riguardo ai veicoli. Ora, nella categoria veicoli rientrano anche le motociclette e le moto. Cosa facciamo con queste? Anche queste devono montare pneumatici invernali? Sì, termici, penso di sì, Mauro Bertolotti. No, assolutamente no. L'ascoltatore ha ragione, lì c'è un errore normativo, perché autoveicoli non vuol dire, come qualcuno può pensare, almeno nel codice della strada, all'interno degli autoveicoli censisce persino i veicoli a mano, cioè le carriole, per capirci, quindi non è così. Allora, è chiaro che quella norma si applica solo laddove c'è la possibilità di applicarla. Questo è un chiarimento che abbiamo fatto lo scorso anno mandando una comunicazione a tutti, e credo che il Ministero sia dei Trasporti che dell'Interni a breve farà qualcosa in questo senso, perché certamente non si applica per le moto e non si applica nemmeno per i mezzi pesanti. Antonio Miele, presidente di Confartigianato Autoriparazione. Ci sono degli ascoltatori che chiedono, per risparmiare qualcosa, che cosa ne pensate se montiamo le gomme termiche solo davanti o solo dietro, quindi solo a livello anteriore o posteriore? È una buona scelta, sicuramente per il portafoglio può esserlo, ma diciamo per la tenuta stradale può esserlo? Bertolotti dice che è una follia. Aspettili, Bertolotti, non lo contengo oggi, Miele. Sì, no, per il portafoglio sicuramente, però per la sicurezza sicuramente no. Quindi io normalmente consigliamo di montare tutti e quattro i pneumatici invernali, quindi oppure estivi, però vanno sempre messi tutti e quattro rispetto. Si possono anche montare i due pneumatici sulla trazione, diciamo, però non dà quella sicurezza. Come dire, un po' ovvio, tutto si può fare, però è che a Bertolotti scalpita, devo sentire pure la sua, Allora, da un punto di vista normativo è consentito, da un punto di vista tecnico è una follia. È sconsigliato. Sconsigliato, attenzione, ma non per fatto economico, piuttosto non montare nemmeno le due gomme. Perché non è un fatto economico, qui è un fatto proprio di buon senso, perché lo capisci chiunque, non occorre essere dei tecnici. Alla prima curva io agisco con il mio volante sull'asse trattivo, che generalmente è l'asse anteriore, dopodiché perdo di aderenza al posteriore e non riesco assolutamente più a controllare la vettura. A proposito del cambio su due, Franco da Pavia, buongiorno, rapidissimo perché stiamo chiudendo. Ieri ha montato le quattro gomme da neve, ma la legge dell'obbligo... Ieri ho messo le quattro gomme da neve perché la macchina mia tira posteriore, però mi hanno detto però bisogna mettere tutte e quattro. Allora volevo fare questa domanda: perché le catene bisogna portarne due dietro e basta? Sono nella... in caso Perché, Franco, abbiamo capito, Bertolotti, sì, no, le catene mette solo davanti. Perché sono due prodotti che non sono assolutamente paragonabili. Allora, grazie, abbiamo terminato, ci saremmo potuti divertire ancora a lungo, avevamo veramente tante telefonate, magari un'altra puntatina per vedere se tutti i comuni hanno ottemperato a questo obbligo, la faremo. Grazie ad Antonio Miele, a Fabio Bertolotti, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, domani.